privilegio partecipare alla trasmissione più cool in circolazione. Grazie ragazzi. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ricordi nel brasiliano, il cross in aria, Hamsik rete, Marek Hamsik, Napoli in vantaggio, attenzione però, Higuain parte il tiro, rete, gol fantastico, Higuain fa esplodere il San Paolo al 18esimo, il 2-0 del Napoli. Io sono pazzo, e voglio essere chi voglio, escite fuori da casa mia. Altro numero di Santana che se ne va dal fondo, la mette in mezzo, una deviazione al volo, Shaqiri, Palacara sta lì, Andukar porta vuota, attenzione, Palacio rete, Palacio al 27esimo, l'Inter a corso di distanza, palla dentro, attenzione, contatto, calcio di rigore per l'Inter, la rincorsa, parte Icardi, rete, finisce la sua corsa in fondo alla rete al 42esimo su calcio di rigore, il pari. Si sento sta nervatura, metta tutto un faccio, muri sul pazzo. Positivo per me l'atteggiamento della squadra, il lavoro, il gioco, tante cose che devo pensare che dopo 40 partite, essere dove siamo nel campionato, essere dove siamo in Europa League, essere dove siamo nella Coppa, dopo aver vinto un trofeo, mi sembra che qualche errore si può fare, però soprattutto vedere la squadra giocare a livello che ha giocato oggi, credo che è quello che mi sembra più positivo. Mi sono piaciuti tutti, a parte quando perdiamo le palle così più semplici, mi sono piaciuti tutti i giocatori che comunque hanno giocato, e questo è quello che noi dobbiamo fare, giocare a 5 minuti alla fine 2-2, secondo me noi dovevamo tenerli lì e cercare di fare 3-2, e quindi anche lì dobbiamo un po' migliorare. 800 24 00 24, telefoni aperti adesso per 90 minuti. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, anche di metà copertina, la seconda metà non gli è piaciuta. Daniele Buonamici in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Pierluigi Pardo, dove? Diga. Dove? Cologno Monzese. Cologno Monzese. È isto. In tiki-taka mood, tiki-taka state of mind, ma anche tutti convocati state of mind, ovviamente. Non ci siamo annoiati ieri sera, no? No, decisamente no, e la copertina è bellissima, un po' perché ci fa sentire vino e quindi ci dà gioia, e poi perché è perfetta, insomma, nel senso che il Napoli, soprattutto il Napoli, ha confermato pregi e difetti, genio e sregolatezza, e insomma, alla fine paga pesantemente due punti che erano importantissimi e che invece sono svaniti, merito anche dell'Inter, per carità, però insomma, credo che il titolo sia la follia del Napoli. Sì, meravigliosa squadra incompiuta, esatto. Anche l'Inter, sai quante volte con Mancini in panchina non ha preso gol l'Inter? 6 su 21, te lo dico io, 6 su 21, bravo, Inter 6 su 21, compreso Coppa Italia ed Europa League, Inter e Napoli che in campionato credo siano l'undicesima e la dodicesima difesa, e questo dice tanto anche del fatto che ieri sera francamente ci siamo divertiti, bella partita, bei giocatori, oggi tanti segnalano la differenza che passa tra l'Inter e il Milan, a parte quel punticino in classifica 36 contro 35, Beh, chi ieri sera non ha visto Napoli-Inter magari può non capire, però due meravigliose incompiute. Sì, beh, sicuramente l'Inter ha più energia in questo momento, ha più prospettiva, ha più speranza del Milan, non ci sono dubbi da questo punto di vista, insomma. Ha anche tante fragilità che poi in qualche modo condizionano la classifica, però ha una prospettiva, una speranza. Il discorso abbiamo fatto mille volte a proposito di Roberto Mancini, al di là dell'empatia scarsa che c'era tra Mazzarri e i suoi ex tifosi, quelli dell'Inter, insomma, Mancini ha portato comunque una sensazione che qualcosa stia nascendo, che con tutte le imperfezioni e con tutte le difficoltà del momento, i tanti errori soprattutto difensivi, però ci sia una possibilità, ci sia una destinazione possibile davanti, cosa che prima sembrava non esserci. E cosa che sembra non esserci tuttora al Milan. Io vorrei anche chiedere agli amici a casa, che cosa ne pensano della non soluzione di ieri sera. Inzaghi non esonerato, non confermato, non esonerato. Poi questa mattina raccontano le cronache, Berlusconi gli ha telefonato per esprimergli fiducia e vicinanza, Galliani è andato a pranzo a Milanello, stanno pranzando proprio in questi minuti, il che significa nel gergo milanista che Inzaghi resta lì dov'è almeno fino a lunedì prossimo, quando c'è Fiorentina-Milan. Mi piacerebbe sapere da voi che cosa ne pensate. 800 24 00 24, forse Pier mancava un'alternativa, mancava anche la voglia di provare a ripartire per l'ennesima volta, fare il quarto allenatore in 14 mesi. Sì, detto questo, lunedì c'è la Fiorentina e vediamo che succede, nel senso che la situazione non mi sembra risolta in positivo, cioè non mi sembra sia arrivato un segnale fino alla fine dell'anno che dia sicurezza all'allenatore, e quindi bisogna aspettare, diciamo che è nel purgatorio in questo momento, non è stato cacciato ma non è stato nemmeno confermato. Sì, bisogna intendersi bene su che cosa si attende la società dal Milan di Firenze. Non so se la vittoria, il pareggio, una prestazione dignitosa più delle ultime, forse lo capiremo in questa settimana. Pier, ti faccio sentire questa mattina a proposito di Milan, Gattuso a Mix 24. Ma io sono stato abituato che c'era sempre una testa che comandava, e in un'azienda ci vuole sempre una testa che comanda. Ma tra Galliani e Berlusconi chi ci capisce di più di calcio, secondo te? Ma secondo me è più Galliani. Più Galliani. Sì. Chi ci capisce più di calcio, Pier? Tra Galliani e Berlusconi? Sì. Sono bravissimi tutti e sì, due. Va bene. Chi ci capisce più di calcio, Pier? Tra Galliani e Berlusconi? Ah, Berlusconi, guarda. Chi ha scelto Inzaghi? Facciamola, prendiamola larga. Allora, Berlusconi ha scelto Seedorf, Galliani ha scelto Inzaghi, giusto? E non è andata benissimo. Quindi se guardiamo i numeri, sì, ci capisce più Berlusconi. Ecco, se guardiamo i numeri di queste due scelte, visto che Seedorf è andato meglio di Inzaghi, anche se poi alla fine sappiamo che Seedorf è stato respinto da tutti come un corpo estraneo, e anzi ha spalancato la strada a Inzaghi. Chi ci capisce di più sono ruoli diversi, cioè Berlusconi non ha mai avuto... Berlusconi ha fatto sempre il presidente, quindi in qualche modo ha delegato, poi sappiamo che ci sono state delle ingerenze, alcune anche abbastanza pittoresche negli anni della sua gestione. Negli ultimi mesi, anche negli ultimi un certo mesi, balletto però, intorno direi, a Torres direi, è la prima punta che ha confuso, insomma, probabilmente, insomma, anche Berlusconi Gagliano. Ha mille difetti, ma non credo che avrebbe sostituito Pazzini per mettere Bocchetti, no. Ecco. Ma questo... quello credo non l'avrebbe fatto nessuno. Pier, c'è il traffico, 800 24 00 24. Poi torna un altro grande in panchina, ve lo racconto dopo il traffico. It's Malakia, 100% Malakia. Tutti convocati. Sì, c'è chi dice il Milan è finito, Berlusconi si è disinteressato, la salvezza è a 40 punti, a parte che la salvezza quest'anno è meno, quindi potrebbero anche bastare i 35 già fatti. Poi c'è un amico che scrive, Pier, per me non ne capiscono niente tutti e due, Galliani e Berlusconi. Fammi salutare Tancredi Palmeri. Ciao Tancredi. Oh, buongiorno, ciao Pier. Saluti davanti al Duomo di Napoli. Saluti davanti al Duomo di Napoli. Chi capisce di più di calcio fra Galliani e Berlusconni? Beh, ingenerosa come domanda, direi che è una staffetta. È una domanda. Sì, infatti, è un'alternativa, ma voglio dire, ma cioè, Gattuso ha risposto e ha detto ne capisce di più Galliani. Vabbè, però Pardo ha svicolato. Un Milan gallianesco. Io svicolato, cui... sì, sì. E svicolerò sempre. Ma secondo me capiscono tutti e due. Cioè, voglio dire, non ho mai parlato di calcio con Berlusconi, non ho mai parlato di calcio. No, con Galliani qualche volta ho parlato di calcio, con Berlusconi non ci ho mai parlato, quindi non saprei dirti. Beh, leggenda vuole che Berlusconi sia uno dei due presidenti di Serie A oggi ad avere un passato da allenatore. Lo associa a Manenti, L'altro è Manenti. No, sto scherzando, lo dico anche agli amici da casa, se no poi finisce male. Licenziato Zola, torna in panchina al Cagliari Zeman. Io non so cosa ne pensate voi, Tancredi. Ma è una cosa forse di cui si poteva fare, a me non dico il licenziamento, ma forse addirittura, guarda, ti dico l'allontanamento di Zeman. La squadra del Cagliari è stata, per quello che il livello è stata costruita da livello da da salvezza risicata, e Zeman quando se n'è andato non è che fosse ultimo il Cagliari, si stava giocando una salvezza risicata. Zola ha fatto grosso modo quello che poteva fare con quello che ha in mano. Mi ricordo quando l'anno scorso Squinzi, che noi ora lo diamo e tutto, però ha dato di matto per Francesco, che stava facendo un gran lavoro, per poi dopo un mese e mezzo ritornare a Di Francesco. Hanno buttato del tempo perché Zola, prima gli devi dare un attimo di tempo per mettere assieme la squadra, poi sono arrivati dei nuovi. Insomma, il Cagliari sta facendo grosso modo il campionato che deve fare, appena fuori o appena dentro la retrocessione. L'allenatore non è che può fare miracoli. Sì. Adesso però non è appena fuori, eh. Adesso è. Però l'Atalanta che pareggia a Parma gli dà una bella mano. Capito, gli dà una bella mano, però è a meno 4, cioè è raggiunto dal Cesena. Insomma, io ti dico che gli esoveri sono sempre comunque la dimostrazione plastica di un fallimento, quindi è ovvio che non sono mai una mossa giusta in assoluto, però forse arrivati a questo punto il Cagliari deve rischiare, deve prendere più rischio, e con Zeman è più probabile che questo rischio, in positivo o in negativo, possa succedere. Insomma, magari arriverà ultimo o magari si salverà. Insomma, con Zola ultimamente francamente mi sembrava abbastanza encefalogramma piatto, lo dico con rispetto, però poi Pier, credo anche che non sia un caso che Atalanta e Cagliari, che sono le due che probabilmente, almeno stando a oggi alla classifica, si giocheranno la salvezza fino alla fine, tutte e due entrino nell'ultimo quarto di questo campionato cambiando allenatore. Evidentemente entrambe hanno capito di rischiare, stanno cercando una scossa. Mi pare, correggetemi se sbaglio, che sia stata la domenica dei grandi rimpianti. Abbiamo detto il rimpianto del Napoli, che poteva trovarsi a meno 2 e invece è a meno 4 e adesso rischia, il rimpianto dell'Inter che comunque rimane lontanissima dalla zona Europa, c'è anche il rimpianto della Roma che ha capito di essersi dissolta completamente. Pier? Sì, la Roma è veramente una imbarazzante, perché la diagnosi è chiarissima ma non si trova il rimedio. La squadra, diciamo, la piccola percentuale di bicchiere pieno è dovuta al fatto che non soffre con nessuno. Tant'è vero che ha passato l'esame col Feyenoord, che con la Juve, che comunque era capolista, la squadra più forte d'Italia, fino a prova contraria, alla fine poteva sbragare e non è successo. Però c'è un piccolo dettaglio, che non vince le partite perché tira pochissimo in porta e segna ancora meno, e quindi questo è molto preoccupante, perché il campionato è diverso dalla Coppa. Il campionato devi vincere le partite. Se non fai 3 punti, sì, soprattutto se ne pareggi 8 su 10, ti condanni a perdere strada. Se continua così la Roma va in Europa League, cioè, se non ti sveglia. Quindi Tancredi oggi, Garcia ha detto: ma io ieri non ero arrabbiato con i miei, ha definito il pareggio inquietante, la squadra scarsa, adesso sono motivatissimo, per fortuna torniamo in campo in fretta, perché questa è una settimana di Europa League. In realtà a me e a tanti altri, leggendo oggi i giornali, è parso che ieri Garcia fosse ben più che arrabbiato con i suoi, forse si sentiva tradito. Sì, il punto è che è smontata in questo momento la Roma, nella testa, nell'animo, ancora più che nel gioco. Nel gioco è smontata già da un po'. Serve, secondo me, noi parliamo facile, ovviamente, seduti nella nostra poltrona, in piedi a lunedì, poi loro sono 3 mesi che si smattano i problemi, però serve secondo me uno slancio ulteriore, ma da parte di tutti, perché sono rimasti imprigionati nella loro dichiarazione, non solo dichiarazione di Garcia, era anche un atteggiamento che aveva la Roma, quasi di dover vincere per diritto divino quest'anno il campionato. Guarda, visto che esco adesso dalle 7 miserie di Caravaggio, ci vuole uno slancio umanissimo, ad andare oltre quella che è la condizione in questo momento. La Roma è incarcerata come il carcerato di Caravaggio che è Cimone, che è venuto a trovare da sua figlia e siccome le dote di misericordia siamo la poesia. Posa la boccia di Falanghina, hanno bisogno di uno slancio che in questo momento non hanno, lo spogliatoio. Ragazzi, vi lascio, bisogno di andare oltre quello noi ti vogliamo bene, Tancredi, ti vogliamo bene, e la Falanghina lo sappiamo perché ne ho bevuta forse una boccia intera ieri sera, che ha un effetto anche vagamente allucinogeno. Fra l'altro, fra poco parliamo con Nardella, sindaco di Firenze, che ha deliberato sulla nostra proposta, siamo felicissimi, ci sarà il gemellaggio vedi che gancio ti ho dato? Sì. No, mi era di gancio. Siamo pieni d'orgoglio. Se giovedì vieni a Firenze, penso che anche con l'accredito stampa ci andiamo a vedere i musei gratis stamattina. Anche con l'accredito stampa, quindi non solo con i biglietti dello stadio, ma pure là, anche con l'accredito stampa. A proposito di allenatori un po' così, un po' nervosi, un po' arrabbiati, vi faccio sentire quello che è successo ieri sera a Sky con il Napoli, con Benitez, o meglio quello che non è successo. Scusa Massimo, mi sembra di sognare, nel senso, ho capito bene, vero. È un silenzio stampa ad aziendam, cioè con Sky. Sì, è così. Rafa Benitez non parlerà con Sky, né faranno altrettanto i giocatori delle Napoli. Quanti anni hai di carriera? Ti è mai capitata una cosa del genere? No, la prima, c'è sempre una prima volta. C'è sempre una prima volta. Bisogna capire se si può fare, perché credo che lo capiranno le aziende reciprocamente. Ci sono anche dei doveri da parte delle società e da parte dei tesserati. Sì, e dei contatti. Ovviamente contrattualmente ritengo difficile immaginare che si possa fare. Che prima o poi io dovrò dire qualcosa, ma mi piacerebbe che Benitez andasse a guardare tutte le partite del Napoli 89-90, quando abbiamo vinto lo scudetto, il secondo scudetto del Napoli. Farebbe bene a guardarsi tutte le partite del Napoli e poi vedrai che forse gli viene voglia di venire a parlare qua. Allora, martedì soprattutto il signor Benitez ha detto di me che sono un esperto di golf e di politica, ma tifo per la Juve, e quindi si è preparato il discorsetto, è andato anche a qualcuno, gli ha anche detto quali sono i miei hobby, quali sono state le mie attività in passato, si è dimenticato di dirgli però che ho fatto più di 300 partite in Serie A, ho vinto due scudetti, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Italiana a Napoli, 10 anni di lavoro a Sky. Ma no, ma volevo stasera, io volevo proprio dirgli: Benitez, guardi, veramente è calcio. Faranno la pace prima o poi? Fate voi, Tancredi, Pierre. Perché vuoi cominciare? No, io sono in imbarazzo, nel senso che chiaramente è molto fastidioso il silenzio stampa ad aziendam. No, ma è una cosa che non esiste, e poi io mi fermo qui. Questo appunto. È molto fastidioso, insomma, sarebbe sempre auspicabile un chiarimento fra le persone, no? Al di là del fatto che poi, insomma, anche ammesso che ci possa essere un problema con Massimo Mauro, comunque Massimo Mauro non è tutta Sky, no? Nel senso che le grandi aziende come Media Sky, la Rai, hanno ovviamente una polifonia di voci che dicono cose e che devono essere diverse. È chiaro, se tutti dicono la stessa cosa, no? A me Antichitaga mi scrivono continuamente: come fai a invitare quella? Come fai a invitare quell'altro? È ovvio che è proprio nel confronto fra opinioni divergenti che c'è la democrazia, se vogliamo farla alta, no? O comunque c'è il dibattito, c'è il talk show, quindi francamente sì, una mossa che non è piaciuta, non mi sembra bello, insomma. Una mossa che non è piaciuta nemmeno a molti tifosi, stanno anche scrivendo qui al 349-238-6666 perché il Napoli invece di fare silenzio stampa non vince, oppure non gioca con la maglia azzurra in casa, oppure c'è chi ricorda che il silenzio stampa era tipico di altri grandi club, ad esempio la Juventus, sì, è stato per tanti anni, però qui era particolare, l'ottimo Giorgio De Luca oggi ha fatto un po' di ricerche a Napoli e dintorni e mi dice che gira voce che non fosse un silenzio stampa contro Massimo Mauro, ma per protestare contro una presunta ingerenza di Sky nella questione Parma. Napoli aveva una posizione, ma sarebbe anche peggio, Tancredi. Tenderei a escluderlo, devo essere sincero, perché insomma è vero che nella riunione di Lega c'eri anche tu, a noi sono arrivati poi, ovviamente arrivano tutti gli spifferi, vabbè, quello succede sempre, che si assalgono, si gridano, si insultano e poi alla fine riescono, è peggio della riunione condominiale di Fantozzi, non come, peggio, però credo che mi pare complicato, anche perché il è vero che il stesso era critico sulla decisione di andare al Parma, però è stato appurato in sede di riunione di Lega che in verità non c'era molto spazio per quella che era la paventata azione di Sky, perché in verità nel contratto fatto con le televisioni si prevede che il campionato essere a 20 e a 18 squadre o a 18 squadre, sì. E quindi pare che insomma questo fosse il liberi tutti, per cui siamo assolutamente tutelati contrattualmente. E poi perché il Napoli dovrebbe andare a fare sua una lotta che è comune e proprio con Sky, come se fosse una roba, come se fosse che Sky ha mandato alla Lega, ma parlando perché? Al Napoli. È da ieri sera che non ci dormiamo, io, Giorgio De Luca, Daniele Bonamici, anche per Luigi Pardo. Pardo ha dormito. Assoluto disimpegno e disinteresse sulla materia. No, mi sembra poco elegante adesso, a parte le battute. Mi sembra poco elegante, però fa poi io una spiegazione ce l'avrei, Pier. Sai quanti punti ha fatto la Roma nelle ultime due giornate? 2. E quanti ne ha fatti il Napoli? 1. Ecco. Mi sembra ci siano un po' di nervi tesi. Ma ciao, no, Tancredi. Non è solo quello. Ciao, ragazzi. Ciao, Tancredi. Ciao. Tutti convocati. Penso soprattutto che questo pareggio è un pareggio con un gioco brutto. Non somiglia per niente a tutti i pareggi che abbiamo fatto. Soprattutto nel primo tempo la squadra è stata scarsa, il gioco brutto. Era possibile giocare 2 ore, 3 ore senza segnare. Ci sono a volte delle sconfitte incoraggianti, delle vittorie inquietenti. Questo pareggio è veramente un pareggio inquietente. Così Garcia ieri, ho già detto, non ero arrabbiato, sono contento che si torna subito a giocare. Ha anche detto, non me ne vado da Roma perché voglio entrare da allenatore nel nuovo stadio, che significa posticipare un eventuale divorzio, 2019, 2020, non lo so. Tanto penso che stasera Pier, la Juve chiuda il discorso scudetto. Penso anch'io e... È il vero paradosso di questo campionato, nel senso che un po' forse perché le avversarie erano meno forti rispetto agli anni scorsi, la Roma è andata meno forte, la Juve si è permessa qualche pausa che l'anno scorso sarebbe stata più complicata da gestire. Là dietro stanno facendo Ciapanò, la partita di oggi, non me ne voglio i tifosi di Juve e Sassuolo, secondo me è Lazio-Fiorentina, nel senso Lazio-Fiorentina è veramente una partita che ci può dire tutto su quello che può succedere lì, che è tantissimo, perché se la Lazio vince o se la Fiorentina vince è un punto sotto, insomma si accredita veramente come una squadra da Champions. Sì, ma tutte e due, chiunque vinca. Ribadisco, se la Roma non si sveglia non va in Champions League, cioè al di là del secondo posto, nel senso se non ricomincia a vincere le partite, se si sblocca. Però io non sono d'accordo con quello che ha detto Garcia, nel senso che non è un pareggio così diverso da altri, secondo me. È un pareggio, se vuoi, ancora più sbiadito, ma non mi sembra... No, ma è diverso che ha azzerato lui il credito di fiducia, di pazienza nei confronti della squadra. Forse ha sbagliato prima. Raffaele da Venezia. Raffaele, eccoci. Sì, ciao. Ecco, io volevo parlare un pochino di Napoli e Inter. Eccoci. Io sono un tifoso napoletano, anche se in realtà vivo da sempre a Venezia. Ecco, io volevo dire questo. Onestamente io non ho visto né un grande Napoli, ho visto una grande Inter. E lo so, da tifoso napoletano è un po' strano dire una cosa di questo genere. Io non riesco a capire innanzitutto poi anche tutte le polemiche che vengono fatte su questo, sugli eventuali arbitraggi negativi nei confronti del Napoli, sul Napoli che viene praticamente destabilizzato. Onestamente a me sembra una squadra con grosse difficoltà, il Napoli, una squadra che in vantaggio per 2-0, per carità, aveva di fronte una grande squadra, non è riuscita a mantenersi il vantaggio, una squadra che col Cagliari sul 3-1 ha si è fatta pareggiare a limiti suoi più che esterni. Raffaele, Pier, io sono abbastanza d'accordo. Sì, no, ma io sono d'accordo, sono d'accordo anch'io, insomma, siamo d'accordo tutti e due, siamo d'accordo, dai. Su questo non c'è molto da discutere, secondo me. E l'Inter ha delle qualità, l'Inter ha la capacità di risorgere, come è successo per esempio contro la Lazio, come è successo nel secondo tempo contro la Juve. Cioè, è una squadra che ha delle oscillazioni di rendimento e ha dei picchi molto interessanti. Il problema è che prende troppi gol, è che dietro balla troppo e che non ha una consistency, come dite voi italiani? Sì, ma che poi è il problema anche del Napoli. Non è costante. Che poi è il problema, Pierre, anche del Napoli. Ne ha presi 33 il Napoli di gol, sì, in campionato, ne ha presi 34 l'Inter. Quindi simili. Poi il Napoli chiaramente ha più struttura e più forza. Sono due fotocopie. Però hanno delle caratteristiche in comune, sono d'accordo. Claudio da Milano, Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, prima di tutto trovo abbastanza stucchevole il quesito ne capisce di più Galliano, ne capisce di più Berlusconi, ne capiscono tutte e due di calcio. Quando noi vincevamo 7 Champions League e gli scudetti, non dicevamo chi ne capiva di più di calcio, dicevamo che ne capivano di calcio. Ma tutto tutti parte e due. Da quello che ha detto Gattuso, che insomma Milanello ha passato qualche settimana, no? Della sua carriera, e Gattuso però gli ha detto: anche fatto una domanda, dai, gli hanno ha detto ne capisce di più. Gattuso improvvisamente ha detto: Galliani capisce di calcio e che Berlusconi no. Gli hanno fatto una domanda e lui ha risposto. Indipendentemente da questo, volevo parlare anche di Inzaghi. Sì. Inzaghi, secondo me, io sono un abbonato Milan. Inzaghi, secondo me, è palesemente inadeguato al ruolo che ricopre, palesemente. Andava bene forse ad allenare la primavera. Io sono estremamente convinto che, che per esempio un allenatore come Conte o anche un allenatore come Garcia avrebbe ottenuto risultati estremamente migliori con la rosa, sì, che il Milan ha. Non hai detto poi due nomi banali, Claudio, ovviamente passa tutto tra Conte, Garcia e Pippo Inzaghi. Dire che in una situazione come questa un tecnico più esperto, più preparato, più navigato, come chiunque altro che non sia uno che è al debutto, avrebbe fatto meglio, io credo sia fotografare la realtà. Pier, abbiamo il sindaco di Firenze in onda, Dario Nardella. Sindaco, buon pomeriggio. Eccoci, buonasera. Buon pomeriggio. Va? Tutto bene, siamo al lavoro. Pronostico per Lazio-Fiorentina subito, poi parliamo di cose serie. Due fisse. Io sono abbastanza scaramantico, quindi due fisse. Non chiedetemi pronostici. No. Però diciamo che stiamo passando un bel periodo, se siamo bravi a sfruttarlo fino in fondo può andarci bene. Ma come vivete in città questo rinascimento della Fiorentina? C'è grande entusiasmo, poi i tifosi viola si entusiasmano con grande facilità perché da tempo aspettiamo di qualche soddisfazione che per il rotto della cuffia in passato non è arrivata. Mi viene in mente la finale triste e drammatica della Coppa Italia dell'anno scorso. Però detto questo, Salah è davvero una sorpresa, straordinario. Si sprecano le battute, gli slogan per un ragazzo che sta davvero stupendo tutti, ha fatto un gol, il primo gol soprattutto allo Juventus Stadium, che tutti hanno giudicato da fuori classe. Speriamo che continui così e non sia soltanto, come dire, un momentaneo. Gli date la cittadinanza d'onore, visto che si parla tanto in questi giorni, anche ieri c'è stato il dibattito su Muntari e gli immigrati che fanno bene o male il loro lavoro, per Salah cittadinanza d'onore. Pier. No, è perché adesso vanno molto di moda, diciamo, gli egizi, gli antichi, sì, egizi, anche quelli moderni a Firenze, però c'è questa cosa, questa bella iniziativa della quale in qualche modo siamo stati anche suggeritori. Vogliamo dire che quindi il gemellaggio fra musei si farà, almeno dal punto di vista di Firenze, per Roma-Fiorentina, fatto la delibera per Fiorentina-Roma? Sì, anzi, devo ringraziare Pierluigi perché ha avuto davvero una bella idea nel sollecitare Firenze e Roma a dare un segnale forte e chiaro sullo sport con la S maiuscola e sul rapporto con la cultura. E quindi, detto fatto, domani mattina abbiamo la delibera e tutti i tifosi giallorossi, e non solo ovviamente, chiunque avrà un biglietto per la partita di Europa League Fiorentina-Roma potrà entrare gratuitamente in uno dei tanti musei civici della nostra città, a cominciare da Palazzo Vecchio, da dove parlo in questo momento, che è un museo straordinario. E quindi io credo molto in questo binomio tra cultura e sport. Possiamo dirlo, Pier, che siamo abbastanza orgogliosi. Sì, abbastanza. Allora, siccome non mi piace tirarcela, ecco, è una piccola cosa, una piccolissima cosa che non risolve nulla. Però diciamo che se noi riusciamo a proiettare, innanzitutto il campanilismo è bellissimo, lo sappiamo, una città contro l'altra, per carità, fa parte del calcio. Però se ci rendiamo conto e siamo orgogliosi di vivere in un paese meraviglioso, oggettivamente meraviglioso, già questo secondo me è un tanto riguadagnato. Poi quelle immagini che abbiamo visto della fontana devastata ci hanno fatto incazzare, quindi se riusciamo a proiettare nel mondo questa immagine, se di questa cosa se ne parlerà nel mondo, secondo me facciamo una bella figura. Ecco, tutto qui. Poi per carità, insomma, speriamo che in tanti aderiscano, che in tanti si facciano una gita, che mangino la ribollita, che mangino la chianina e viceversa poi quando ci sarà Roma Fiorentina. Adesso abbiamo una settimana per lavorare sul sindaco Marino, che però da quello che abbiamo capito è sensibile. Parlo ragione, è una piccola cosa, ma io penso concreta, e del resto la cultura serve anche per insegnare valori veri, e se gli sportivi, i tifosi imparano e si fanno stupire dalla bellezza della cultura, secondo me potranno anche essere migliori quando vanno a tifare per le loro squadre, sono sicuro. Viene Renzi giovedì a Firenze per la partita? Ha chiesto il biglietto, o meglio, ha chiesto, sapete, alla Fiorentina, però. Come sapete impegnatissimo, quindi ultimamente allo stadio non lo vediamo, ma ha tanti impegni internazionali e con il paese, e quello penso quindi che niente conti. Partita è quello che conta. Sindaco, il nostro sondaggio di oggi: ne capiscete più di calcio, Galliani o Berlusconi? Guardi, visto che io ne capisco meno sia di Galliani che Berlusconi, non ho alcun titolo per giudicare. Poi c'è Fiorentina Milan lunedì, però devo dire che il sindaco è particolarmente ecumenico, perché insomma ha un portavoce che è molto gobbo, diciamo, che poi era lo stesso. Nonostante tutto sono un tollerante pluralista. Tollerante pluralista, perché non è il solo gobbo bianco nero, il mio portavoce, ve ne sono altri, ahimè, a Palazzo Vecchio, però è circondato. Fino a quando non danno troppo noia, li tolleriamo, diciamo. stasera vincono lo scudetto, e quindi magari domani qualcosa le diranno. Grazie sindaco. Grazie a voi e grazie per l'idea, e proviamo a dare un colpo al vandalismo e invece uno slancio alla bellezza. Grazie sindaco Nardella. Pier, c'è il traffico. Ho voluto unire due forze che sono simili anche nel nome: cinema, calcio, cultura. Questo è il sale della vita. Tutti convocati. Raffaele da Rimini. Sì, eccoci. Salve. Prego. Niente, io volevo soltanto chiedere a voi, che siete più eminenti di me in questo, non sono molto indietro, siccome sono tifoso interista, no? Volevo sapere, siccome secondo me la rosa è da almeno una decina di punti più in classifica, secondo voi è una questione mentale? Vabbè che Mancini è pochi mesi che è lì, e si può risolvere? Mancini ce la farà secondo voi a risolvere la squadra o no? Semplicemente questo qui. Pier. Beh, Mancini sta facendo un lavoro innanzitutto per cambiare la fisionomia a questa squadra, a questa rosa. Ha cominciato con degli strumenti che ovviamente sono un po' a rischio, perché Bellinazzo ce l'ha spiegato con grande chiarezza: l'Inter è comunque soggetta al fair play finanziario, potrebbe ricevere delle sanzioni e deve assolutamente in un modo o nell'altro andare in Champions, che è complicatissimo. No, che è praticamente impossibile. Beh, deve vincere l'Europa League, dai, ci sono poche chiacchiere, quindi è complicato. Questo, se riuscisse in questo miracolo, avrebbe sicuramente più risorse per il futuro. Per ora mi sembra che stia cambiando la mentalità, altrettanto onestamente però bisogna riconoscere che la differenza fra Mazzarri e Mancini ad oggi è una differenza più che altro di empatia agli occhi dei tifosi, perché se guardiamo i numeri sono ancora lievemente favorevoli a Mazzarri, che oltretutto non aveva a disposizione Shaqiri, non aveva a disposizione Brozovic, i giocatori che sono arrivati adesso. Quindi da questo punto di vista, sai come la penso. È anche vero che le ultime due partite contro Fiorentina e Napoli poi alla fine hanno portato un solo punto, però forse hanno fatto vedere anche una differenza proprio di qualità di gioco. Sì, ma Sicuramente probabilmente Mancini, quello che è stato seminato in questi tre mesi, comincia a dare un frutto. Come dicevamo prima, l'Inter di Mancini è quello che si rimprovera Inzaghi, no? Cioè, mentre lì è proprio veramente calma piatta, anzi forse siamo all'involuzione, nell'Inter di Mancini ci sono dei segnali che lasciano ben sperare, anche se poi dal punto di vista dei risultati, e ormai le partite cominciano a essere tante, perché credo siano 16 ormai le partite, o 15 le partite in campionato di Mancini, i numeri bisogna anche guardarli, altrimenti si è intellettualmente disonesti. Per cui secondo me Mazzarri magari nella sua stanzetta ad Empoli farà delle tabelle e si renderà conto, ed ha ragione su quello, cioè non, la bacchetta magica Mancini non l'ha avuta. Ci sono dei segnali che, uniti alla benevolenza che il popolo nerazzurro ha nei suoi confronti, lasciano ben sperare per il futuro. C'è chi ci chiede un parere: Gattuso allenatore del Milan? Io dico la mia, anche no. E Mazzarri allenatore del Milan? Ma guarda, Mazzarri, a me qualcuno qualche settimana fa ha detto che non era un nome così improbabile. Vedi. Antonello da Treviso. Da Messina, Antonello, no, da Messina. Antonello, no, da Treviso. Culturale, no, no, Antonello da Treviso. Antonello? Pronto? Eccoci. Sì, pronto, buongiorno. Eccoci. Grazie per avermi chiamato. Ho visto ieri il fallo che ha fatto Nainggolan, è stato un fallo di gioco. Sì. È stato sinceramente un fallo di cattiveria, ho visto le immagini, al rallentatore, è stato un fallo di gioco, solo che anche la domenica precedente ci sono stati dei falli di gioco abbastanza al limite contro la Juventus, quello di De Rossi, da Di Pietro, per cui secondo me stanno mettendo troppo sull'agonismo i giocatori della Roma. Sì, però sì, quello di Mattiello, io l'abbiamo anche detto ieri, Pieri, nel frattempo hai visto le immagini. No, è stato un fallo di gioco. È stato un contrasto di gioco, sono entrati duri tutti e due. Sì, lui è entrato con la gamba, si vede già ancora prima di toccare il pallone, la gamba sua già è estroflessa, quindi già vede prima ancora di toccare la gamba, lui già piega la gamba e quindi dopo toccandola va ancora più in estroflessione e si rompe. Solo che se avesse fatto questo fallo qua Chiellini, che è il più scarso giocatore della Juventus, sarebbe crocifisso. Se avesse fatto Chiellini una cosa così, Io non so, Antonello, Pier, che idea hai tu? Se l'avesse fatto Chiellini un fallo così non l'avrei crocifisso, perché per me è un fallo di gioco, è un contrasto di gioco ed è una drammatica fatalità, e quindi l'imbocca al lupo è totale. In questi casi si dice che uno tornerà più forte di prima, sono un po' frasi fatte, però il ragazzo è molto giovane e quindi ha la possibilità di, stamattina l'operazione tra l'altro è andata bene, insomma, no, com'è questo? Sì, non capisco, non questa necessità di trovare a tutti i costi il killer. Ma alle volte sì, nello sport, se è uno sport di contatto, può anche succedere quello che è successo ieri. Sì, io ribadisco, non nella dinamica, poi ti ho detto, io l'immagine quella proprio cruenta non l'ho vista, e insomma adesso facciamo la riunione di redazione, ma stasera la mia idea è di non farla vedere, perché veramente è un'immagine forte che mi sembra macelleria, e quindi spero che passi questa linea, perché non decido io completamente, però spero di riuscire a non far vedere quell'immagine stasera, anche perché non l'ho ancora vista io ho visto quella larga e mi sembra un contrasto di gioco che purtroppo finisce in una maniera veramente molto, molto brutta. Pier, abbiamo Flavio da Torino, però 30 secondi Flavio, perché poi c'è il GR, prego. Velocissimo, vorrei sempre, buongiorno a tutti, sì. Vorrei sempre parlare appunto del fallo su Mattiello. Ok, voi dite che è un infortunio, va bene. L'unica cosa che io avrei sperato è che Garcia, quando è stato interrogato, quando ha fatto le sue dichiarazioni, almeno dire mi dispiace per Mattiello, ecco. Beh, niente, ma insomma, ieri la Roma l'ha detto in tutti i modi, Flavio, ma no, l'hanno detto, l'hanno twittato. L'hanno fatto sapere. Garcia, Giorgio De Luca mi dice che Garcia l'ha detto tutto il giorno e ci assicura che non ecco, a me sembra una polemica sterile. Ma sapete, sì, che io le amo, Pier, però insomma, mi pare polemica sterile. È stato un comunicato, tanto voglio dire, sono argomenti sui quali tanto ognuno ha la sua opinione. Purtroppo indietro non si torna, l'unica cosa che possiamo fare è un grande in bocca al lupo a questo ragazzo. C'è stato il comunicato della Roma e io ho letto delle persone sui social network che dicevano come ipocrita la Roma che sì, fa il comunicato, esatto. Se non fa il comunicato ti dicono che non lo dici. Polemica tanto per farla. Purtroppo Pier, è successa questa cosa qui, ripeto, io la malizia non la vedo, al punto che Nainggolan era convinto di aver subito un fallo, e in bocca al lupo a questo ragazzo. Esatto. Dai, facciamo Pier, forte. A domani. Senz'altro. Che dire, arrieccici. We'll be right back. Convocati. Potrebbe essere anche la tua ultima notte qui. Tu che cosa vorresti dire alla società? Perché credi di meritare, insomma, la permanenza? No, ma la società deve fare quello che crede. Io sono deluso, come lo sarà la società. Perché Pazzini non destro? Perché quando vengo qua mi chiede sempre perché non gioca Pazzini, che è molto bravo, che sì, molti, per cui non è che al posto di destro ha giocato un Primavera o un allievo, ha giocato Pazzini, che è considerato da tutti voi un grandissimo attaccante, da me soprattutto, per cui destro da quando è arrivato ha sempre giocato. Ho pensato che una partita giocata in casa, dove speravo di fare tanti cross con Cerci e Bonaventura, la presenza di Pazzini potesse darci dei vantaggi. Sì, agli Agliani, se tu dovessi chiamare, ma a prescindere, che la speranza è quella che, come ho già detto, ci sia sempre un clima positivo. Io parto dal presupposto di volere il bene del Milan. Sono un uomo Milan che in questo momento sta facendo un lavoro molto bello, sono fiero e contento di quello che sto facendo e lavoro per questa società. Notizie di oggi dal fronte milanello, fiducia e vicinanza, questo è quello che ha detto Berlusconi in una telefonata a Pippo Inzaghi. Ha detto: forza Pippo, siamo con te. Gagliani è andato a mangiare, credo che a quest'ora abbiano finito, è andato a mangiare a Milanello. 800 24 00 24, io non ho ancora sentito nessuno di voi dirmi esattamente cosa ne pensa di questo non esonero di Inzaghi. Io non parlerei di conferma. Saluto Arianna Ravelli, Corriere della Sera. Ciao Arianna. Ciao, buongiorno a tutti. A volte anche la tempistica ha un significato. Questa mattina Berlusconi ha telefonato a Inzaghi, risulta siano passate circa 36 ore dal gol di Nico Lopez. Sì, decisamente. Sì, un po' sono servite a far sbollire la rabbia. Un po' Berlusconi in questi giorni, in queste ore, ha anche altri pensieri che riguardano la politica, che riguardano la scadenza importante per lui di domani, il processo, la sentenza di Cassazione sul caso Rubi. Quindi, messo tutto questo assieme, si è arrivati al non esonero, come dicevi giustamente tu. Oggi è arrivata questa telefonata che un po' perché ricordiamo, ieri Pippo Inzaghi è rimasto tutto il giorno a guardare un cellulare, come dire, che non suonava, piange il telefono, non si dice questi casi. Si sono accorti che mancava un anello di tutto il racconto, sì. Forse questa mattina leggendo i giornali, perché poi c'è chi ha fatto delle descrizioni della domenica di Pippo Inzaghi quasi melanconiche. Di questo giovane allenatore che vaga per i ristoranti di Milano tra la notte e il pranzo con in mano uno smartphone e nessuno che lo chiama per dirgli se lo esonerano, se resta, se gode ancora della fiducia, della vicinanza della società. C'è proprio l'impressione, Arianna, che sia un po' mancato il tempo, la voglia di metterci la testa sulla questione Milan. Assolutamente, cioè Berlusconi non aveva la testa in questi giorni, non ce l'avrà fino a martedì, cioè che poi domani, per metterci la testa su questo, e quindi ha lasciato passare questa domenica un po' surreale che abbiamo vissuto tutti, in attesa di un comunicato che non è arrivato, in attesa di un vertice che è saltato, eccetera. Però insomma non abbiamo avuto una conferma. Oggi chiaramente qualcosa a Inzaghi, che alle 15, quindi in questo momento, sta guidando l'allenamento, bisognava pur dire. Quindi è arrivata questa telefonata di Berlusconi e Gagliani è andato a Milanello per l'ennesima volta a controllare, non dico commissariare, forse un po' una parola un po' forte, ma insomma ci siamo capiti. E poi adesso bisogna vedere. Certamente questo non significa che Inzaghi è salvo fino alla fine della stagione, significa molto probabilmente, mi sembrerebbe strano che appunto arrivasse in esonero mercoledì, è vero che la partita si gioca di lunedì, quindi c'è un po' più di tempo, ma io insomma direi che Inzaghi sarà in panchina contro la Fiorentina lunedì e poi però si vedrà, insomma, ecco, ammesso che abbia senso poi cambiare più passa il tempo, voglio dire più ci si avvicina al finale del campionato. Però, insomma, ma tu hai capito che cosa chiede il Milan a Inzaghi a Firenze? Io non credo che sia razionale pensare che chieda la vittoria, no, magari nemmeno il pareggio. Cioè, cosa deve fare Inzaghi per non essere noi qui fra 7 giorni, 8 a fare esattamente la stessa cosa? La stessa cosa e gli stessi ragionamenti. Beh, insomma, come dire, bisognerebbe vedere qualcosa. No? Una volta quello diceva di qualcosa di sinistra, in questo caso bisognerebbe vedere qualcosa di calcio che assomigliasse al gioco del calcio, non si è visto. Milan ha completamente smarrito quel poco di identità che aveva fatto vedere a inizio campionato, che poi voglio dire questo Milan non ha mai giocato bene, no? Però a un certo punto giocava di contropiede, sfruttava determinate caratteristiche di alcuni giocatori, Menez mi ha salvato con la sua imprevedibilità, diciamo anarchia, ha risolto un po' di partite, però da quest'anno, dall'inizio di quest'anno, di questo 2015, proprio non si è visto più niente. Sì, non serve nemmeno mettere in fila i numeri, 10 partite, 10 punti, basterebbe guardarle le partite, quella con il Verona ad esempio vale un punto, ma meglio passare oltre, lo stesso abbiamo detto dopo Milan-Empoli, lo stesso abbiamo detto dopo Torino-Milan. Dopo Torino-Milan forse il punto più basso di questa stagione difficile, quando si è visto un Milan tutto in difesa e senza un'idea, con il Torino che aveva completamente in mano il gioco e con un cambio tra virgolette difensivista che poi abbiamo rivisto in Milan-Verona, e questa è un'altra cosa che non può che fare imbestialire sia Gagliani che poi Berlusconi, che è il cultore del gioco. Esatto, e poi la panchina di destro non dico neanche, certamente non è stata gradita, visto che fortissimamente voluto in 2 sessioni di mercato, raggiunto la famosa scena del citofono, va bene, che resterà negli occhi di tutti, di Gagliani, che si è speso in prima persona. E insomma, tutta una serie, diciamo che allora la società e anche molti tifosi, visto che tutte queste scelte sono state fischiate, la società considera che Inzaghi abbia sbagliato tutto quello che poteva sbagliare in Milan-Verona. Dopodiché, per i motivi che abbiamo appena elencato, è arrivato questo non esonero, e sì, con la Fiorentina, non, come giustamente dicevi tu, non si chiede tanto un risultato, perché a Firenze, voglio dire, hanno perso squadre più si può serenamente perdere a Firenze. Sì, hanno perso squadre più strutturate. Bisognerebbe però vedere qualcosa, anche qualcosa che faccia intendere un'idea di costruzione, che l'anno prossimo non si riparta di nuovo da zero. Questa è una cosa che aveva detto Tassotti in una conferenza stampa quando Inzaghi era malato, e aveva detto: quello che non possiamo permetterci è l'anno prossimo ripartire totalmente da zero, e invece è esattamente quello che sta succedendo. Sì, cioè, l'idea è che si sta buttando via del tempo senza sapere bene dove si sta andando, posto che mi pare di aver capito anche Brocchi non è che facesse impazzire né Gagliani né Berlusconi né la gente né tutti, perché sarebbe evidentemente stato l'ennesimo salto nel buio. Grazie Arianna. Grazie a voi. Però magari lunedì prossimo siamo ancora qui a parlarne. 800 24 00 24, Massimo da Siracusa. Massimo. Sì. Senta, ma volevo dire semplicemente questo riguardo al Milan. Ma Tassotti che ci sta a fare? Non so, in questi casi non sarebbe l'ideale traghettatore della squadra fino a giugno. Chi, scusa Massimo? Chi, scusa Massimo? Mi sono perso il nome. Tassotti. Ma Tassotti, mi pare di aver capito che per l'ennesima volta ha declinato l'invito. Tassotti ha fatto della sua carriera una carriera da secondo allenatore e il Milan ha deciso di rispettare questa scelta, e quindi questa è una scelta che va rispettata, posto che Tassotti potesse essere anche lui la soluzione del problema. Tassotti dentro quella panchina insieme ad Inzaghi, come lo era con Seedorf, con l'ultimo Allegri, lo era con Leonardo, quindi una parte di quelle scelte, le scelte tanto criticate, di cui cui abbiamo parlato, anche quelle di ieri, sono anche scelte di Tassotti, non solo di Inzaghi. Fabrizio da Livorno, Fabrizio. Sì, buonasera. Io più che Ciao. Del Milan volevo parlare dell'Inter. E devo dire, non sono d'accordo con quello che diceva Pardo circa 20 minuti fa sul fatto che Mazzarri c'era una stanzina col pallottoliere a vedere che ha fatto mezzo punto in più, mezzo punto in meno. Cioè, secondo me il discorso è che con Mazzarri ci vergognavamo di entrare in campo da interisti. Oggi con Mancini, anche se la media punti sono una virgola meno, sì. Io vado a petto in fuori. Volevo sapere cosa ne pensavate, grazie. Sì, che si è visto che quello che è stato seminato da Mancini in questi mesi sta cominciando a dare qualche frutto a livello di gioco. Poi i numeri sono quelli, non si può discutere sui numeri. I numeri dicono che Mancini sta andando più o meno alla stessa velocità di Mazzarri. Forse ha ragione anche Mazzarri quando ha detto, Mancini quando ha detto, restando col vecchio allenatore, questa squadra probabilmente avrebbe 4-5 punti in più in classifica, perché c'è stato un lungo momento in cui Mancini ha dovuto ricostruire da zero il gioco, ha perso tante partite, non ha nemmeno giocato bene in quella fase e si è allontanato di molto dalle zone alte della classifica. Però mancano 12 giornate. Secondo me l'Inter, vista nei secondi tempi con la Fiorentina e nel secondo tempo di Napoli, ha qualcosa per pensare di fare anche un piccolo filotto, qualcosa che magari l'avvicini a quel quinto posto, posto che il quinto posto si sta allontanando. Questa sera Lazio-Fiorentina ore 19, poi Juventus-Sassuolo ore 21, dirà tanto non solo sulla lotta per la Champions League, ma anche per capire dov'è l'asticella per quel quinto posto che vale l'Europa League. Pensabile, o diciamo chi lo pensava era fuori di testa, che a febbraio, a fine febbraio, la Juventus potesse aver vinto lo scudetto. O come qualcuno, magari quando abbiamo iniziato la stagione, non pensava che la Juventus a febbraio, a marzo avesse 9 punti di vantaggio. E quindi, come dico sempre io, nelle cose ci vuole molta calma. Qualcuno l'ha già ribattezzata la sfida tra Salah e Felipe Anderson. Secondo lei potrà essere questa la sfida? No, io credo che tutte e due le squadre hanno diverse frecce al proprio arco, hanno diversi giocatori di qualità e credo che sia normale che sia così, perché sono due squadre che, ripeto, hanno degli obiettivi importanti, però sarà la squadra a dover fare la partita per compattezza, per lucidità e soprattutto per, io credo anche domani sarà importante giocare bene tecnicamente. È una partita estremamente difficile perché veniamo da tante partite ravvicinate e... A differenza dalla Lazio, giochiamo in Europa League, abbiamo giocato in Europa League e questo ti ha comportato a fare una decina di partite in più, più o meno, e lo potresti pagare fisicamente, ma sicuramente con l'organizzazione mentale che dovremo avere, adeguata, che dovremo avere, possiamo sopperire a questo. Serata da divano oggi, Stefano Meloccaro. Stefano, ciao. Eccoci qua, di che cosa vogliamo parlare? No, io volevo parlare del titolo di Tutto Sport oggi in prima pagina, sono Kazaki Amari, meraviglioso. Sì, devo dire che io sono molto colpevolmente, ieri ho twittato Astana Amara e adesso mi prendo la mia parte di responsabilità, perché voglio dire, dovevo pensarci io a Kazaki Amari, ecco, non è bello che uno di Twitter come me, di tennis, non l'abbia pensata lui, però complimenti, insomma, Kazaki Amari è perfetto. Sì, no, non è bello neanche essere usciti. No. Allora funziona così, non ne farei proprio una tragedia, nel senso, aspetta, adesso prendo, sei pronto per una frase proprio da titolo che vorrei mutuare dal mondo del calcio? Vai. Una sconfitta in Kazakistan ci può stare, ecco, te l'ho detto, ci può stare, ci può stare. Proprio mi uniformo al linguaggio calciofilo. Sì, e non nel parli senso... con Sky nemmeno tu. No, sicuramente io non parlo, non parlo, tu rispondo alle domande di tutti meno che a quelle di Sky e ti dico che comunque i nostri, secondo me, che se ne dica, nonostante abbiano ostentato nel pre-partita poche sicurezze, tutti dicevano andiamo lì, è dura, in realtà secondo me, visto come stavano andando, perché comunque è stato un bel mese quello passato, no, per il tennis italiano, Seppi ha battuto Federer in Australia, Fognini aveva battuto Nadal a Rio de Janeiro, Bolelli aveva battuto Berdych, per cui, capito, i nostri erano in forma, dunque pensavano, secondo me, di andar lì e fare proprio il comodo loro. Sì, vincere è facile. E invece sono andati lì subito dal primo match, le cose si sono messe male perché siamo subito andati sotto, Bolelli si è fatto subito battere da Kukushkin, che poi ha battuto pure Seppi per il due pari, che è stato quasi il vero protagonista della sfida, e poi alla fine Fognini comunque è un po' mancato, però la Coppa Davis, sia in senso positivo che in senso negativo, ci ha abituato che succedono strane cose che nei tornei non succedono, cioè uno come Fognini da Niedovyesov non perde il numero 20 del mondo, dal numero 130 nei tornei perde molto difficilmente, ma in Davis ti fregano ogni tanto qualche palla perché sai che sì, anche più di ogni tanto, Stefano, abbiamo visto cose che voi umani, no, io ho visto sabato il doppio, devo dirti la verità, poi ieri purtroppo gli impegni calcistici mi hanno portato via dalla Coppa Davis. Sabato ho visto un tie break che non si poteva vedere, 4 dei primi 5 punti ribaltati completamente. È vero, però è anche vero che c'è l'occhio di Falco, no? Sì. Che quello ti dà ragione o ti dà torto, e molto spesso dalla regia l'Italia. Però è anche vero che a uno come Fognini gli fai girare le scatole in maniera particolare, no? Uno che non è proprio esattamente sempre calmissimo, sempre tranquillo, perciò ottieni l'effetto quantomeno di innervosirlo. È anche vero che poi Fognini, che comunque arriva al quinto set sotto 4-1 e ribalta tutto e va 5-4 lui, ti aspetti che vinca la partita essendo più esperto e di maggiore personalità, però ripeto, se si mette punto a punto poi può accadere di tutto, per una volta è accaduto che abbiamo perso noi. Ma ripeto, non ne farei una tragedia, cioè, secondo me per il tennis, io da tifoso italiano preferisco quasi che Seppi batta Federer in uno slam, che Bolelli batta Berdych, che Fognini batta Nadal, e magari mi prendo anche la possibilità di fare uno spareggio per restare in Serie A, ecco. Sì, tra l'altro in Serie B c'è la Spagna, no? Correggimi se sbaglio, quindi è successo anche a loro, e occhio perché è una delle nostre potenziali candidate per lo spareggio, perché giocando nell'altro gruppo potremmo in teoria anche incontrarli. Quindi non sarà la nostra Corea, questo Kazakistan? No, abbiamo avuto Coree peggiori, Grazie Stefano. Grazie a voi, buon divertimento. Grazie Stefano Meloccaro, non c'è tempo per fare Marcello da Milano, siamo in chiusura, vi leggo che cosa ha appena detto Antonio Conte, poi magari ne parliamo domani, dopo il GR delle 14, ha detto Antonio Conte, se questa Juventus avesse la cattiveria della mia avrebbe 20 punti in più di vantaggio, ma sta dimostrando comunque di meritarsi ampiamente la prima posizione in classifica. Ha detto Antonio Conte, se questa Juventus avesse la cattiveria della mia, avrebbe 20 punti in più di vantaggio. Non so cosa ne pensate voi, domani dopo il GR delle 14. Ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici in redazione. Domani dopo il GR delle 14.